Peter Pan. Tanto tempo fa a Londra viveva la famiglia Darling. La famiglia era composta da due genitori e i loro tre figli, Michael, John e la sorella maggiore Wendy. Una ragazza amorevole e affabile nel prendersi cura dei suoi fratelli. I bambini avevano una tata. La tata non era altro che un grosso cane Terranova di nome Nana. Ouch! Vorrei che Peter Pan fosse qui con me. Peter Pan, Capitan Uncino, Trilli! Il giorno dopo, giunta la sera, i due coniugi Darling furono invitati ad una grande festa. John, Michael, Wendy, noi andiamo! Tutti i bambini scesero per abbracciarli. I bambini tornarono nella loro camera e dormirono. Subito dopo, una luce brillava sul tetto. Peter Pan e Trilli erano tornati. Peter Pan lentamente aprì la finestra per entrare in casa. Trilli invece iniziò a volare in ogni angolo della casa. Facendo cadere degli oggetti, fece un gran baccano. Shh! Non fare rumore, si sveglieranno! Trilli aprì il cassetto in cui l'ombra di Peter Pan si nascondeva. Peter prese l'ombra. Ombra, ti devo legare. Peter Pan fece di tutto per legare la sua ombra senza riuscirci. Shh, non ti muovere! Ma Wendy era già in piedi e fissava Peter Pan con la bocca aperta. Oh no! Chi sei? Cosa stai facendo qui? Sono Peter Pan. Sto cercando di legare la mia ombra. Dammela, lo farò io. Wendy iniziò a cucire con ago e filo. Mentre Wendy cuciva, Peter Pan gli parlò dell'isola che non c'è. Viveva nell'isola con i bimbi sperduti. Lui è il capitano dei bimbi sperduti. Racconta tante storie a Wendy. Trilli diventò gelosa del legame che era nato tra Peter e Wendy. Oh wow, com'è avventurosa la tua vita. Wendy, vieni con me. Posso? E i miei fratelli vengono con noi? Oh sì, perché no? Sarai la mamma dei bambini sperduti e gli racconterai tante belle favole. Ecco fatto. Ora la tua ombra non può più scappare. Sveglierò John e Michael. Grazie, Wendy. Peter donò un ciondolo con una noce a Wendy in segno di gratitudine. Wendy presentò John e Michael a Peter Pan. Entrambi i fratelli furono felici di conoscere Peter Pan. Andiamo, cominciamo a volare. Faremo un lungo viaggio. Ma noi non possiamo volare. Ma è facile. Non vi resta che pensare a qualcosa di bello e aggiungiamo un po' di polvere di fata. Vieni, Trilli. Con un po' di esitazione, Trilli lanciò tanta polvere di fata. Siete pronti per volare? Sì! Ok, allora andiamo. E così iniziò il loro viaggio. Lungo il percorso superarono il ponte di Londra, la torre dell'orologio e ben presto cominciarono a volare sopra le nuvole. Al mattino, con il primo raggio di sole, videro la più grande costruzione che esiste al mondo. Infine, giunsero nell'isola che non c'è. In piedi sulle soffici nuvole, ammiravano il panorama. È davvero bellissima! Guarda, la laguna delle sirene! Ehi, Peter, da dove arriva quel fumo? Quello è il campo indiano e lì vicino si trova la nave Jolly Roger, dove vivono il Capitan Uncino e i suoi pirati. Pirati cattivi. Uncino è il pirata più cattivo che c'è, ma ha paura del coccodrillo. Perché? Tempo fa combattevo con lui. Gli ho tagliato la mano con la mia spada. Oh! Il coccodrillo gli mangiò la mano. Gli piacque così tanto che lo voleva mangiare tutto. Fortunatamente per Uncino, il coccodrillo ingoiò anche l'orologio. E tic-toc, tic-toc, tic-toc, Uncino sa quando il coccodrillo è vicino. In quel momento, uno dei pirati li vide attraverso il cannocchiale. Capitano, capitano, ho visto Peter Pan e i suoi amici! Capitan Uncino salì sul ponte, prese il cannocchiale per osservare. Preparare il cannone! Punta su Peter Pan, fuoco, fuoco, fuoco! Questa volta non voglio lasciarmelo scappare! Ehi, guarda quella palla! Giochiamoci! Oh? Non è una palla! È la palla di un cannone! Dividetevi! Trilli, porta i bambini in un luogo sicuro! Penserò io ad Uncino! Trilli invece pensò ad un modo per sbarazzarsi di Wendy. Wendy, stai qui, io tra poco tornerò. Ah, ok, fai attenzione. Prese con sé John e Michael e li portò vicino alla riva. Mentre Wendy stava lottando nel cielo, schivando la palla di cannone, Peter Pan andò dritto da Capitano Uncino. Uncino, vuoi aggiungere un gancio all'altra mano? Vieni a prendermi. Uncino tirò fuori la pistola e cominciò a sparare a Peter. Peter schivò tutto con un'incredibile velocità. Trilli chiamò i bambini sperduti per aiutarla. I bambini sperduti sono Piffero, Pennino, Ricciolo, Pochino e le gemelle. Amici, Peter mi ha detto di colpire un uccello. Bisogna obbedire all'ordine di Peter e colpire l'uccello. Tutti si munirono di arco e freccia per colpire Wendy. Wendy stava ancora volando per cercare i fratelli. Peter! John! Michael! Campanellino! Dove siete andati? Puntarono e scagliarono le frecce contro Wendy e così lei cadde tra i cespugli. Tutti i bambini sperduti corsero insieme a Campanellino per vedere quello strano uccello caduto. Sei un vigliacco, Peter Pan! Vieni subito qui! Ok, se ci tieni tanto! Peter Pan scese a terra con la sua spada e iniziarono un combattimento con la spada. Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Il rumore distrasse Capitano Uncino. Oh no! È tornato! Il coccodrillo affamato si avvicinò per divorare Capitano Uncino. Ma Capitano Uncino si spaventò e corse via verso la nave. Guarda, è una ragazza! Una bella ragazza! Trilli, perché ci hai detto di ucciderla? Peter Pan giunse insieme a John e Michael. Cos'è successo? Chi ha scagliato questa freccia? Trilli si nascose dentro un grande albero. Trilli, ci ha detto che tu hai ordinato di ucciderla! Che lei è un uccello! Ah, Trilli, ovunque ti trovi, rimani dove sei! Non devi farti più vedere da me! Oh, Wendy, che ti è successo? Apri gli occhi! Peter tirò la freccia dal suo petto e si rese conto che non c'era sangue sulla freccia. Avevano colpito il ciondolo di noce che Peter donò a Wendy. Wendy aprì lentamente i suoi occhi. Io ti stavo cercando! Eccomi, sono vicino a te. Vieni, andiamo a casa. Perché non racconti una delle tue favole? Sì, certo. Vi racconterò la favola di Cenerentola. Il giorno dopo, tutti insieme si diressero a visitare la Laguna delle Sirene. Le belle sirene erano amiche di Peter Pan. Improvvisamente un ragazzo gridò: Pirati! Mettetevi al riparo! Tutti si nascosero dietro le rocce. Peter e Wendy videro che i cattivi pirati avevano legato Giglio Tigrato, la principessa indiana. I pirati l'avevano lasciata su una roccia nella laguna. Oh no, è Giglio Tigrato! Devo salvarla! Peter ebbe un'idea, imitò la voce di Capitano Uncino. Liberala! Ma Capitano, ci hai ordinato tu di portarla qui! Lasciala andare, stupido! È la mia nuova strategia per catturare Peter Pan! Va bene, Capitano! I pirati liberarono Giglio Tigrato. Lei corse subito al campo indiano. Quando Capitano Uncino scoprì quello che era successo, capì che Peter aveva ingannato i suoi pirati. Uncino divenne furioso. Ora basta! Darò a Peter Pan una sonora lezione! Vengo a prenderti, Peter Pan! Quella notte, Wendy raccontò ai ragazzi la storia di tre bambini che lasciarono i loro genitori e volarono verso l'isola che non c'è. Pensavano molto alla loro mamma e al loro papà. I bambini amavano l'isola che non c'è, ma anche i loro cari genitori. Tu sai quando torneremo a casa? Oh, sì, molto presto, promesso. Spesso i genitori dimenticano i loro figli, altri bimbi prendono il loro posto. I nostri genitori devono essere preoccupati. Noi dovremmo andare a casa. Partiremo domani mattina. Ma chi ci racconterà le favole? Perché non venite con me? Potrete vivere con noi. Yeah! Sarà bello avere una famiglia! Che bello! Peter, non vuoi venire con noi? Voi tutti crescerete molto in fretta. Io voglio rimanere un ragazzo. Non voglio vivere con gli adulti. Mi dicono cosa devo fare. Peter Pan era triste perché i suoi amici stavano per partire il giorno dopo e avrebbe vissuto tutto solo. Al mattino i bambini lasciarono la casa. Peter non andò a salutarli per la loro partenza. I pirati di Capitan Uncino si nascosero nelle vicinanze, catturarono tutti i bambini, li legarono e li portarono sulla nave pirata. Trilli li vide dalla cima dell'albero. Oddio, dov'è Peter Pan? Lo devo avvisare! Peter? Peter Pan? Dove sei, Peter? Che cosa vuoi, Trilli? Andiamo! Dobbiamo salvare i nostri amici! I pirati li hanno catturati! Oh, ok, andiamo! Oggi darò in pasto al coccodrillo Capitan Uncino! Sulla nave dei pirati, tutti i bambini furono imprigionati. Oggi il coccodrillo avrà un buon pranzetto! E sono certo che mi risparmierà la vita! Eccomi, Capitan Uncino! Capitan Uncino iniziò con Peter Pan un duello con le spade. Peter si lanciò con la sua spada e Uncino cadde in mare. Il coccodrillo inghiottì in un boccone Capitan Uncino. E quella fu la fine di Capitan Uncino. Trilli liberò i bambini. Tutti si riunirono intorno a Peter Pan. Sei coraggioso, Peter! Come un eroe delle favole! Racconterò la tua storia a tutti i bambini! Beh, per me è un grande onore! Dai, preparatevi a partire! O avete cambiato idea? Peter, ti prego, vieni con noi! Io sono Peter Pan e non crescerò mai! Vi accompagnerò fino alla vostra casa! Yeah! Tutti partirono per Londra. I genitori di Wendy erano felici di rivedere i loro figli. La signora Darling abbracciò Wendy, John e Michael. Sapevo che sareste tornati un giorno. Mi siete mancati così tanto, figli miei. Chi sono questi ragazzi, Wendy? I bambini sperduti. Piffero, Pennino, Pochino, Ricciolo e i gemelli. Arrivano dall'isola che non c'è per vivere qui. Possono stare con noi. Sì, certo. Urrà! Yeah! Urrà! Peter fluttuava fuori dalla finestra. Peter, non vuoi cambiare idea sulla tua decisione? No, io vivrò sull'isola, dove non potrò mai crescere. Arrivederci, Peter. Ci mancherai. Ciao, Wendy. Ciao, bimbi. Non dimenticatemi. Così Peter Pan e Trilli salutarono e volarono via verso l'isola che non c'è.